Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? E benvenuti anche a questa nuova puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro i balloon, che come spesso ha già ricordato altre volte in passato, non legge solo il Pioniere come un giornaletto fatto solamente di strips e di fumetti, di vignette e nuvolette, ma anche un giornale ricco di molti testi scritti. Testi scritti che possono andare da racconti inediti dello stesso Rodario, di personaggi legati alla Resistenza come la Viganò, testi scritti che possono essere solamente lettere dei ragazzi al direttore o i giochi, testi scritti che invece possono essere tanta, davvero tanta, divulgazione storico-scientifica o anche, è un certo secondario, testi scritti che sono la riduzione per ragazzi di grandi classici della letteratura. Una pratica questo che porterà al Pioniere testi come 20.000 leghe sotto i mari, Moby Dick, Robin Hood, Ivanhoe, o i classici di Sherlock Holmes, tutti appunto a portata di un linguaggio giovanile. Una pratica questa che non era solo certo del Pioniere, tanta editoria per ragazzi praticava questa riduzione dei classici, ma era una pratica anche più vasta che non riguardava solo i giovani. Per esempio, Mamma Rai nel servizio pubblico, in un'Italia analfabeta o quasi del dopoguerra, mettevi in onda spesso questi teleromanzi che riportavano in versione nazional popolare grandi classici, per esempio La cittadella di Cronin o i lavori di Dickens, oppure questo Conte di Montecristo di Verne del 66. Allora, chi è qui Edmond Dantès? Io. In nome della legge vi dichiaro un arresto. Cosa? Cosa? Arresto per che cosa? Andiamo. Pare che lei abbia manifestato un certo fanatismo politico. Io? Ma non ho idee politiche io. L'ambizione di diventare capitano della mia nave. Sposarmi. Ma altre idee? No, davvero. Un capitano così giovane? Una donna certo bella che lui sta per sposare? Lei non può non aver suscitato dell'invidia. L'invidia può fare d'un amico un nemico. E al di là del povero Edmond Dantès, che ingenuo non vede ancora stringersi l'orribile congiura dei tre falsi amici, che lo porterà poi a essere il conte di Montecristo nella terribile vendetta, la domanda che invece noi ci poniamo in questa trasmissione è: quella pratica di ridurre i grandi classici a livello di ragazzi è ancora una cosa che oggi è seguita con attenzione dall'editoria più avanzata, oppure una pratica sorpassata e si punta direttamente a nuovi romanzi scritti appositamente per i ragazzi? Lo ha chiesto per noi Simona Sagone dell'associazione Yucali al recente Festival del Libro per Ragazzi che si è tenuto proprio a Bologna. Ascoltiamo alcune risposte di famosi editori. Richiesta del presidente di Radio Città Fujiko, Alfredo Pasquali, abbiamo voluto chiedere ai nostri intervistati che cosa ne pensano di quelle operazioni editoriali in cui si fanno delle riduzioni per bambini della letteratura, dei grandi romanzi di tutti i tempi. E andiamo a scoprire insieme le risposte. Cominciamo con l'intervista a Coccole Book con l'editrice Daniela Valente. Penso che sia più l'esigenza degli adulti e l'aspetto commerciale del libro a rendere necessario le riduzioni. adulti che vogliono che bambini ancora non adatti a leggere un testo classico conoscano cos'è l'Odissea, i miti greci o l'Ulisse, ma anche case editrici che per venire incontro alle necessità e alla richiesta di un mercato propongono dei prodotti di questo tipo. Io penso che non sia un male farli, occorre però lavorare bene, cioè fare dei prodotti belli e anche intelligenti, perché parlare di Dante o di Ulisse ai bambini va benissimo, senza scimmiottare questi eroi, raccontandoli con una penna professionista e con illustrazioni all'altezza. Quindi no, non è una cattiva cosa la riduzione, ma basta saperla fare. Dopo aver ascoltato le risposte degli editori di Coccole Book, andiamo a scoprire le risposte di Anselmo Roveda. Cosa ne pensi delle edizioni in cui vengono ridotti per l'infanzia i grandi classici, i romanzi classici? Non lo so, è molto scivoloso. L'immaginario si nutre di storie grandi, ridigerite, rimasticate, riraccontate. Quella è un'operazione che si può fare, nel senso che entra nell'immaginario e riracconti una storia. L'adattamento, cioè invece il semplificare, il ridurre un classico, non mi sembra interessantissima come operazione. Un po' perché ogni cosa, e anche i libri, così come ad esempio gli alimenti, hanno dei momenti nei quali noi li incontriamo durante la nostra vita e li possiamo godere ed apprezzare nella loro interezza. Non per assaggiare il gorgonzola a un bambino, non è che gli fai una parte di stracchino, una puntina di gorgonzola annacquando un po' e glielo spacci come gorgonzola. Ecco, nello stesso modo un libro, un grande classico, non mi piacerebbe che fosse del gorgonzola annacquato con dello stracchino. Detto questo, ci sono altri modi per raccontare classici. Uno dei miei ultimi volumi, diciamo, anche se in realtà è una cartina, racconta i pirati di Capitan Salgari, cioè le avventure di Sandokan e il Corsaro Nero, ma è una mappa, non si sostituisce alla narrazione, ma invita nella sintesi visiva, nella sintesi di informazione di quei cicli di pirati ad andare poi direttamente alle fonti. Nella mia idea, quella mappa, che è accolta nella collana Mille e una mappa, che così fa con altri grandi classici, è semplicemente uno strumento in più per andare a incontrare quei libri a cui si riferisce. Siamo in compagnia dell'illustratore Enrico Machiavello. Cosa ne pensi di quelle operazioni editoriali in cui si riducono i grandi classici, i grandi romanzi per bambini? Trovo che se è fatto bene sia molto interessante dal punto di vista mio, che sono un illustratore. È bello disegnare anche storie che hanno un po' di anni o che siano molto conosciute, e d'altronde nella storia si raccontano proprio le stesse tipologie di storie dall'alba dei tempi, quindi perché quando si racconta un mito, perché non farlo anche con un classico? A Monica Martinelli, 7-9 edizioni. Cosa ne pensate di quelle operazioni in cui si riducono per bambini i grandi classici della letteratura di tutti i tempi? Un'opinione formata e strutturata su questo in realtà non ce l'ho. A sensazione, quando ho visto le prime opere, non mi hanno fatto una bella impressione, insomma, perché parlando sempre di complessità, ci sono delle opere che vanno conosciute per quello che sono, insomma, magari con una mediazione eventualmente di un adulto, però secondo me vanno conosciute per quelle che sono, proprio per evitare quella semplificazione del linguaggio e dei contenuti. Però non ne conosco molte, quindi può essere che ce ne siano alcune fatte benissimo, delle quali non sarei in grado di parlare, quindi non me la sento di dare un giudizio tranchant su questo tema. Forse abbiamo troppa fretta, non abbiamo il coraggio di aspettare che si abbia l'età giusta per affrontare, che so, Delitto e Costigo, Kafka. Questo senz'altro. Quindi la letteratura, la promozione della letteratura per l'infanzia fin da bambini, anche semplicemente promuovendo dei libri senza parole, ad esempio, no? Per abituare alla lettura, alla pazienza nel cercare dettagli, al tempo da dedicare un libro ad un oggetto, già secondo me può aiutare più avanti poi ad avere voglia di aspettare e avere la necessità anche di prendersi un proprio tempo per crescere, no? Tra gli stand della fiera abbiamo fermato lo scrittore Antonio Ferrara. Cosa ne pensa di quelle operazioni editoriali in cui si riducono ad uso bambini i grandi romanzi di tutti i tempi? Sì, confesso di avere una complessità e ho persino partecipato a una di queste operazioni con una collana che prova, e ho accettato per questo motivo, prova a usare, per così dire, la voce dello scrittore contemporaneo vivente per raccontare come un amico sgamato, esperto, smaliziato a un adolescente un classico, senza rispettarne lo stile, quindi come se fosse uno scrittore che con le sue parole, in poche parole si chiama la collana, prova a raccontarti un collega morto, famoso, storicizzato. Come tale l'operazione per me è interessante, anzi è pregiata, perché si tratta di sedurre un ragazzino, una ragazzina, detto così sembra una cosa da pedofilo, un ragazzino, una ragazzina, un bambino, una bambina, su un argomento accattivante come la letteratura, letteratura classica, che però naturalmente ha un linguaggio e persino tematiche inadeguate per un ragazzo contemporaneo. Insomma, la mia scommessa è quella di partire da tematiche contemporanee, linguaggi accattivanti per i ragazzi, e poi portarli fino a Dante. Invece noi insegniamo ai ragazzi, soprattutto a scuola, la storiografia cronologica, disinneschiamo tutto il potere eversivo, scandaloso, emozionante che la letteratura possiede. Faccio un esempio: non si può, per spiegare la Shoah in maniera accattivante, usare un libro di narrativa che sia per esempio Primo Levi e neanche Anna Frank, oso dire. Non sono libri attuali, non sono libri accattivanti per i ragazzi. Ci sono centinaia di autori contemporanei in tutta Europa che con una modalità narrativa hanno parlato della Shoah in maniera seduttiva, emozionante, con libri che di fatto contengono incredibili informazioni circa la Shoah, le leggi razziali, la seconda guerra mondiale. L'idea è acchiappare i ragazzi dalla pancia o dal cuore, se preferite, e portarli poi alla testa. Per fare questo lavoro esiste proprio la narrativa per ragazzi, non il manuale di storia e neanche il manuale di letteratura. Mi viene una frase, un'affermazione di Dino Buzzati, che una volta ha scritto uno splendido romanzo per ragazzi, La fantastica invasione degli orsi in Sicilia, e un critico letterario e giornalista letterario gli chiese: maestro, ma lei che è uno scrittore, voleva dire serio, importante, cioè che ha scritto solo per adulti, come mai stavolta ha fatto un libro minore, voleva dire, di serie B, cioè per ragazzi? E Dino Buzzati ha risposto: guardi che scrivere per ragazzi è come scrivere per adulti, solo molto più difficile, anche solo per un problema anagrafico e di empatia, perché se scrivere vuol dire mai autocompiacimento, fare l'amore con chi ti legge, cioè stabilire una relazione, quando tu scrivi per ragazzi l'empatia è doppia, perché non hai più l'età di quel ragazzo, ma puoi pescarlo dentro di te, naturalmente. Ascoltiamo ora un redattore della casa editrice Orecchio Acerbo, Simone Tonucci. Cosa ne pensate di quelle operazioni editoriali in cui si riducono per l'infanzia invece i grandi classici della letteratura di tutti i tempi? Riteniamo poco interessanti. Per quanto ci riguarda, laddove riproponiamo dei classici, ci piace farlo riproponendoli in versione originale, magari rilavorando a livello di editing eventualmente delle piccole cose, ma se un grande scrittore è considerato un classico non capiamo perché ridurne il testo e il lavoro. Allo stand di Calandraca abbiamo incontrato l'autrice Guglia Risari. Cosa ne pensi di quelle operazioni editoriali in cui si riassumono per i bambini i grandi classici della letteratura di tutti i tempi? So che possono essere molto utili nello spingere i bambini e soprattutto i ragazzi ad affrontare più tardi, diciamo, delle letture impegnative con un po' di preparazione. A me personalmente lasciano un po' fredda, perché penso che il fatto di affrontare libri più o meno difficili sia una tappa nella lettura, no? Quindi preferirei, insomma, che i ragazzi leggessero i libri adatti a loro o che loro si sentono di leggere nella loro integralità. Moby Dick, Melville o Led Zeppelin? T.

scese o sandauso, che in se manco caeghi stionai, ma la promessa è si da se fatta, te dorrai a innoiare gattai. E dalla figura di Antonio Gramsci passiamo a ben altra parrocchia, perché parliamo di Donald Trump, che è protagonista a suo malgrado di questo fumetto Donald la minaccia, ospitato dal portale Graphic News. È un Donald Trump che poi veste nel proseguo del fumetto le figure come Freddy Krueger, lo stregatto, i Simpson e ovviamente Donald Trump Duck. Ce ne parla Pietro Scarnera proprio di Graphic News. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Fellow Americans. He's been sick. And I think his wife is gonna bring him some chicken soup. Di Peter Cooper, uno dei direi più importanti fumettisti non solo negli Stati Uniti ma direi a livello mondiale, sempre molto politico nelle sue cose. Lo abbiamo contattato e a un certo punto ci ha proposto questa storia che ripercorre in realtà il primo anno in particolare della presidenza Trump, però in questo modo molto interessante per noi, perché utilizza proprio molti personaggi dei comics americani o anche dell'animazione, quindi dai Simpson a Donald Duck ovviamente, per raccontare appunto la rocambolesca presidente amministrazione Trump, no? E quindi Trump raccontato da Cooper è una specie di mutaforma che cambia nel corso della storia. Esatto, è proprio Trump che assume le sembianze ora di Freddy Krueger, ora dello stregatto, insomma di tanti personaggi. Sì, direi che una satira abbastanza feroce di Cooper, però ci è sembrato molto interessante, insomma, soprattutto il fatto che probabilmente una delle cose che si possono fare col fumetto, no? Cioè usare, mescolare, immaginare in questo caso. E a tenere le fila di tutto c'è questa campanellino, cioè la fatina di Peter Pan, che però è messicana, quindi racconta le cose da un punto di vista ovviamente di una certa parte. Quindi insomma è un lavoro molto, molto divertente, ma come è poi nello stile anche di Graphic News, attraverso il fumetto si fa anche informazione, si ricostruiscono, come dire, le fasi che hanno portato prima alla campagna elettorale e poi alla vittoria di Trump. Sì, queste fasi e poi anche veramente direi tutto il primo anno della presidenza, e quindi i vari personaggi che si sono susseguiti, no, nella Casa Bianca, questi personaggi che durano magari qualche mese poi se ne vanno litigando con tutti gli altri. Si arriva anche insomma poi alla manifestazione, le manifestazioni delle donne a gennaio in particolare. E la cosa interessante è che Cooper direi che ha usato quasi sempre frasi dette da questi personaggi, quindi anche la ricostruzione di tutto quello che è successo, che comunque sono tanti eventi e anche con questi toni spesso difficili, no? Cioè da rendere, da capire, anche il lavoro di ricostruzione è effettivamente proprio di informazione, anche se ha questo tono sarcastico. E emerge un quadro distopico che del resto è quello che stiamo vivendo. Sì, direi di sì. Poi fra l'altro, cioè, ovviamente poi questi sono anche un po' i tempi del fumetto, mentre nel frattempo sono già successi altri licenziamenti, altre cose come seguiamo, cioè come vediamo ogni giorno in pratica. E sì, però cioè, penso che parte il tratto di Cooper, che è molto legato al fumetto anche underground americano, una lunga tradizione, è molto adatto anche a raccontare questo caos, insomma, che vivono gli Stati Uniti, insomma, non è che lo abbiamo inventato noi, chiaramente. Cioè questa difficoltà a capire questa nuova realtà politica, in fondo. Ma tu dicevi, avete contattato Cooper, è stato molto liscio così, lo conoscevate già, avevate già contatti? Ecco, su questo noi dobbiamo sempre ringraziare Gianluca Costantini e Elettra Stambulis, che sono gli organizzatori del Festival Comic Advent, che per tanti anni hanno portato autori, per cui lo stesso Peter Cooper, appunto, in Italia, autori legati al fumetto di realtà. Quindi c'era questo legame, anche se, cioè, io l'ho conosciuto anche personalmente, alcuni di noi l'hanno conosciuto anni fa, però ecco, diciamo che il lavoro che hanno fatto Gianluca e Elettra è per noi è sempre un punto di riferimento. E in più, comunque, i libri di Cooper sono stati pubblicati in Italia, in particolare l'ultimo si chiama Rovine ed è uscito per Tunuè. Penso che anche da parte sua ci sia un legame col nostro paese. Credo che questa primavera verrà in Italia per i vari festival di fumetti. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non...